Il sole declinante incendiava un muro interminabile che il nostro fiacre doveva costeggiare per raggiungere la via dove abitavamo, muro sul quale le ombre del cavallo e della vettura, proiettate dal tramonto, si stagliavano in nero contro il fondo rossastro, come un carro funebre in una terracotta di Pompei. Finalmente arrivammo. Feci sedere la malata ai piedi della scala, nel vestibolo, e salì ad avvertire mia madre. Le dissi che la nonna non stava troppo bene, che aveva avuto un capogiro. Sin dalle mie prime parole, sul viso di mia madre si dipinse uno sconforto così parossistico e al tempo stesso già rassegnato, che capì da quanti anni dovesse tenerlo in serbo dentro di sé per un giorno incerto e finale. Non mi chiese nulla. Sembrava che, nello stesso modo in cui la malvagità si compiace di esagerare le sofferenze altrui, lei si rifiutasse per tenerezza d'ammettere che sua madre fosse stata colpita, per di più da un male che può ledere l'intelletto. La mamma era scossa da brividi, il suo viso era sconvolto da un pianto senza lacrime. Corsi a dire che andassero a cercare il medico, ma quando Françoise volle sapere chi stava male, non riuscì a risponderle, la voce fulminata nella gola. Scese correndo assieme a me, cancellandosi dal volto il singhiozzo che lo increspava. La nonna, giù, aspettava sul divano del vestibolo, ma non appena ci sentì arrivare, si raddrizzò, si mise in piedi, fece alla mamma allegri cenni con la mano. Le avevo avvolto parte della testa in una mantiglia di pizzo bianco, dicendole che era per proteggerla dal freddo delle scale. Speravo che mia madre non notasse troppo l'alterazione del viso, la deviazione della bocca. Era una precauzione inutile. La mamma si avvicinò alla nonna, le baciò la mano come fosse la mano del suo Dio, la sostenne, la sollevò sino all'ascensore, con cautele infinite nelle quali al timore d'essere maldestra e di farle male si accoppiava l'umiltà di chi si sente indegno di toccare quel che conosce di più prezioso. Ma non alzò una sola volta gli occhi per guardarla in viso. Forse lo fece perché la nonna non si rattristasse pensando, con il suo aspetto, di turbare la figlia. Forse per paura di un dolore troppo forte che non osò affrontare. Forse per rispetto, convinta che non le fosse lecito, senza impietà, constatare la traccia di un qualche indebolimento intellettuale nel volto venerato. Forse per serbare più intatta, dopo, l'immagine del vero volto di sua madre, splendente di intelligenza e di bontà. Salirono così l'una accanto all'altra, la nonna seminascosta nella sua mantiglia, la mamma volgendo altrove gli occhi. Nel frattempo c'era una persona che, i suoi, non li distoglieva un solo istante da quanto si poteva indovinare dai tratti alterati della nonna, quei tratti che sua figlia non osava guardare. Questa persona, che li fissava con uno sguardo attonito, indiscreto e di cattivo augurio, era Françoise. Non che non volesse sinceramente bene alla nonna, era rimasta anzi delusa e quasi scandalizzata dalla freddezza della mamma, che secondo lei avrebbe dovuto gettarsi piangendo fra le braccia di sua madre, ma aveva una certa inclinazione a prevedere sempre il peggio e aveva conservato dall'infanzia due caratteristiche che sembrerebbero doversi escludere a vicenda, ma che, quando si trovano riunite, si rafforzano reciprocamente. La mancanza di educazione della gente del popolo, che non fa nulla per dissimulare l'impressione o addirittura lo spavento doloroso provocato dalla vista di un cambiamento fisico che sarebbe più delicato fingere di non aver notato, e la ruvida insensibilità della contadina che strappa le ali alle libellule in attesa che le si presenti l'occasione di tirare il collo ai polli ed è sprovvista del pudore che la spingerebbe a nascondere l'interesse destato in lei dalla vista della carne che soffre. Quando, grazie alle impeccabili attenzioni di Françoise, fu messa a letto, la nonna si accorse di poter parlare molto più facilmente. L'occlusione o la piccola rottura di un vaso sanguigno provocata dall'uremia era stata evidentemente di lieve entità, Si preoccupò allora di non venir meno a sua figlia, di assisterla nei momenti più crudeli che avesse mai attraversati. «Ebbene, figlia mia», le disse prendendole la mano e tenendosi l'altra davanti alla bocca per attribuire una parvenza di causa alla leggera difficoltà che ancora incontrava nel pronunciare certe parole. «È così che commiseri tua madre? Hai l'aria di credere che non sia poi tanto spiacevole un'indigestione?» Allora, per la prima volta, gli occhi di mia madre si posarono appassionatamente su quelli della nonna per non vedere il resto del suo viso, mentre, inaugurando la serie di quei falsi giuramenti che sappiamo di non poter mantenere, le diceva: «Mamma, prestissimo sarai guarita, è tua figlia che te lo promette!» E affidando tutta la forza dell'amore, tutta la volontà che sua madre guarisse, a un bacio in cui le racchiuse e che accompagnò col suo pensiero, con l'intero suo essere sino all'orlo delle labbra, si chinò a deporlo umilmente, pianamente, sulla fronte adorata. La nonna si lamentava di una specie di deposito alluvionale di coperte che si ricreava di continuo dallo stesso lato, sulla sua gamba sinistra, e che non le riusciva di rimuovere. Ma non si rendeva conto di esserne lei stessa la causa, e così ogni giorno accusava ingiustamente Françoise di averle aggiustato male il letto. Con un movimento convulso respingeva da quel lato il fiotto spumeggiante delle coperte di fine lana che vi si ammucchiavano come la sabbia in una baia destinata ben presto, se non si costruisce una diga, ad essere trasformata in greto dai successivi apporti della marea. Mia madre ed io, le cui menzogne erano implacabilmente intuite da Françoise, perspicace e sgradevole, non volevamo nemmeno ammettere, a parole, che la nonna era molto malata, come se ciò potesse rallegrare dei nemici che peraltro non aveva e denotasse maggiore affetto ritenere che non stava poi così male, obbedendo, in fondo, allo stesso sentimento istintivo in base al quale mi era parso che André commiserasse troppo Albertine per volerle veramente bene. A partire dai casi individuali, gli stessi fenomeni si riproducono a livello di massa in occasione delle grandi crisi. Durante una guerra, chi non ama il proprio paese non ne parla male, ma lo crede spacciato, lo compiange, vede nero in tutto ciò che lo concerne. Françoise c'era preziosa grazie alla sua capacità di fare a meno del sonno, di sobbarcarsi alle mansioni più gravose. E se, andata a coricarsi dopo aver passato in piedi più di una notte, eravamo costretti a chiamarla, che si era addormentata da neanche un quarto d'ora, era così felice di poter svolgere, come se fossero le cose più semplici del mondo, incombenze penose, da mostrare in viso un'espressione non già di riluttanza, ma anzi di soddisfatta modestia. Solo allo scoccare dell'ora della messa e di quella della prima colazione, Françoise si sarebbe rapidamente eclissata per non arrivare in ritardo, anche se la nonna fosse stata agonizzante. Non poteva né voleva essere sostituita dal suo giovane lacchè. Da Combré, evidentemente, aveva portato con sé un'idea oltremodo elevata dei doveri di ciascuno nei nostri confronti. Non avrebbe tollerato che uno del personale non si mostrasse all'altezza con noi. Questo aveva fatto di lei una così nobile, autoritaria, efficace educatrice che mai si erano visti in casa nostra domestici tanto corrotti da non modificare ben presto la loro concezione della vita, epurandola sino ad astenersi da qualsivoglia cresta e a precipitarsi, per poco servizievoli che fossero stati prima, a togliermi di mano e non lasciare che mi affaticassi a portare ogni minimo pacchetto. Ma, sempre a Combré, Françoise aveva contratto e importato a Parigi l'abitudine di non sopportare nessun genere di collaborazione nel suo lavoro. Vedersi dare una mano era, per lei, come subire un sopruso, e alcuni domestici erano rimasti settimane intere senza ottenere una sua risposta al loro buongiorno. Erano addirittura partiti per le vacanze senza ricevere un suo cenno di saluto e senza da parte loro capirne il perché, per la semplice ragione che, un giorno che lei stava male, si erano messi in testa di sbrigare un po' del suo lavoro. E, in quel periodo in cui la nonna era tanto malata, il lavoro di Françoise le sembrava più che mai suo. Non voleva certo lei, la titolare, lasciarsi soffiare il suo ruolo in quelle giornate di gala. Così il suo lacchè, che lei teneva in disparte, non sapeva cosa fare e, non contento di imitare Victor prendendo la carta da lettere dal mio scrittoio, si era messo anche a prelevare volumi diversi dalla mia libreria. Li leggeva, durante una buona metà della giornata, per ammirazione verso i poeti che li avevano composti, ma anche calcolando di infiorare di citazioni le lettere che scriveva ai compaesani nell'altra metà del suo tempo. In tal modo pensava evidentemente di lasciarli allibiti. Ma, scarseggiando di idee coerenti, se n'era costruita una secondo cui le poesie trovate nei miei libri erano universalmente note ed era quindi normalissimo farvi riferimento. E così, scrivendo a quei contadini di cui dava per scontata la stupefazione, inframmezzava alle proprie personali riflessioni alcuni versi di Lamartine, esattamente come se dicesse «chi vivrà vedrà» oppure «tanti saluti». Poiché la malata soffriva, e molto, le fu concessa la morfina. Disgraziatamente, se la calmava, le faceva anche aumentare il tasso d'albumina. I colpi diretti nelle nostre intenzioni contro il male che si era annidato nella nonna finivano regolarmente fuori bersaglio. Era lei, era il suo povero corpo che, frapponendosi, l'intercettava senza lamentarsi che con un debole gemito. E le sofferenze che le provocavamo non erano compensate da alcun bene che potessimo farle. Il male feroce che avremmo voluto sterminare era già tanto se riuscivamo a sfiorarlo. Non facevamo che esasperarlo vieppiù, anticipando, forse, l'ora in cui la prigioniera sarebbe stata divorata. I giorni nei quali il tasso d'albumina si rivelava troppo alto, Cottard, dopo un'esitazione, sospendeva la morfina. Quell'uomo così insignificante, così comune, assumeva, durante i brevi momenti in cui doveva decidere, in cui i rischi connessi ai due diversi trattamenti si affrontavano dentro di lui finché non optava per l'uno o per l'altro, assumeva una specie di grandezza, simile a quella di un generale che, individuo affatto ordinario per il resto della sua vita, dimostra una toccante fermezza quando è in gioco la sorte della patria, quando, dopo aver esitato un istante, trae la conclusione militarmente più saggia e comanda «Fronte a est!». Dal punto di vista medico, per quanto scarse fossero le sue speranze di mettere fine a quella crisi di uremia, bisognava non affaticare i reni. D'altronde, quando la nonna non prendeva morfina, i suoi dolori diventavano insopportabili. Ricominciava senza sosta un certo movimento che le era difficile compiere senza un gemito. La sofferenza è, in larga misura, una sorta di bisogno da parte dell'organismo di prendere coscienza di un nuovo stato che lo inquieta, di adeguare ad esso la propria sensibilità. Questa origine del dolore è chiaramente visibile nel caso di disagi che non sono tali per tutti. Entrando in una stanza satura d'un fumo acre e penetrante, due uomini grossolani baderanno ai fatti loro. Un terzo, di complessione più delicata, tradirà un turbamento assillante. Le sue narici continueranno a fiutare con ansia quell'odore che, in apparenza, dovrebbe sforzarsi di non sentire e che cercherà ogni volta di far aderire, per approfondirne la conoscenza, al suo olfatto sconvolto. Ecco, probabilmente, perché una forte preoccupazione impedisce di lamentarsi di un mal di denti. Quando la nonna soffriva, il sudore le colava sulla grande fronte livida, incollandovi le ciocche bianche, e se le sembrava che nella stanza non ci fosse nessuno, gridava «Ah, è terribile!». ma non appena scorgeva mia madre, concentrava ogni sua energia nel tentativo di cancellarsi dal volto le tracce del dolore, oppure ripeteva gli stessi lamenti accompagnandoli con spiegazioni che davano retrospettivamente un altro significato a quelli che mia madre avesse potuto udire. «Ah, figlia mia, è terribile starsene a letto quando con questo bel sole verrebbe tanta voglia d'andare a passeggio. Piango di rabbia per le vostre prescrizioni».